E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Nuova intervista, questa volta dalla Lombardia. Arriva una band molto speciale che viene per presentare il primo disco. A voi la parola. Ciao a tutti, noi siamo i Noise Machine. Siamo praticamente... Tu chi sei, scusa? Io sono Guido Block. Oh, e bene. Tu chi sei? Io sono il Mizzi. Ma tu canti, per esempio? Io canto come te. Ma suoni anche il basso come me? No, purtroppo no. Purtroppo no, mi tocca lasciare tutto a te, voglio dire. Ciao a tutti, salutiamo anche Dario Mollo da Bordighera, che non è proprio in Lombardia. E Roberto Gualdi, ormai approdato a Novara. Ormai in Piemonte, quindi mezza Lombardia c'è qua. Mezza band lombarda. Ecco, con i Noise Machine, una prima parte dedicata all'hard rock inglese e americano degli anni 70. Abbiamo iniziato con una canzone degli UFO dal titolo Let It Roll, dal disco Force It del 1975. Una band che, nonostante i cambi di illustri chitarristi, tra cui Michael Schenker, ha sempre mantenuto una costanza negli anni. Che ne pensate? Ma io voglio dire, dipende un attimo dalla personalità artistica, no? Cioè, voglio dire, uno cosa sceglie di affrontare dopo che ha scritto degli album? Dice, magari allargo le mie scelte sonore piuttosto che rimango sul mio stile. Michael Schenker è rimasto sul suo stile. Beh, voglio dire, a me piace ancora molto. Non è proprio nei miei gusti. Tu da io da tedesco. Da tedesco. Ovviamente posso dirvi che quel ragazzetto a 18 anni è entrato nei UFO. E che già vi fa capire che già spaccava il culo a tutti a 18 esatto. anni, era veramente un angelo con i capelli biondi e io sono rimasto folgorato, ovviamente, e anche lui è un personaggio veramente forte. Poi gli UFO hanno cambiato tanti chitarristi. Chitarristi, diciamo, adesso hanno Vinnie Moore, tra l'altro, tantissimi, e noi siamo con i Noise Machine, certo. Proprio mi sa che era 3 anni fa. Era sicuramente prima dell'uscita del disco. Siamo quindi andati a vedere UFO al live Attrezzo, ancora quando c'era il vecchio live Attrezzo, e c'era Vinnie Moore alla chitarra e Pete Way al basso, come membro al solito storico, ubriaco marcio. Infatti ha fatto quasi anche un volo giù dal palco, ma tanto questo ci aspettiamo da loro. E hanno fatto un gran show comunque. Quando inizia la storia di Noise Machine e perché avete scelto questo nome? È la domanda. Beh, vuoi partire tu, visto che, voglio dire, c'era una formazione precedente o così? Allora, possiamo legare la cosa ancora ai UFO, e anzi più a Michael Schenker. Nel 2004 abbiamo accompagnato l'ex cantante del Rainbow, Graham Bonnet, con gli Electric Zoo, che era un gruppo che era fatto da Dario Mollo alla chitarra, certo. Roberto Gualdi, che aveva lavorato già con Dario a dei progetti anche con Tony Martin, con The Cage, e anche con Glenn Hughes, e si è trattato di accompagnare Graham Bonnet per tutta l'Europa per fare un tour di una quindicina di date, e dove facevamo anche un pezzo di Michael Schenker, che è Desert Song, e da lì è nato l'amore e l'amalgama perfetta, che poi è sfociato in un progetto con pezzi originali, ma non avevamo il cantante. Allora abbiamo detto, beh, appena troviamo uno adeguato che ha a livello, che poi per fortuna abbiamo trovato un Mizzi qua, e formiamo questa band nuova, e poi la ricerca del nome è sempre un po' terna all'otto. Allora uno cerca di trovare qualcosa di particolare che ha un po' di potenza già nel suono stesso, poi ci piaceva, suonava bene, dai, ma assolutamente suonava bene. Mi sono allora dilungato un po' troppo. Parecchio. Vabbè, allora, guarda, vabbè, pazienza. Foghat, la band di Dave Peverett e Roger Earl, conquista soprattutto il mercato americano grazie ai loro boogie rock che infiammeranno gli stadi dal paese a stelle strisce. Dal disco Foghat Live del 1977 ci ascoltiamo il classico Slow Ride. Formazione magari meno nota da noi, ma che ha impresso una sua piccola storia nel rock che continua ancora oggi, nonostante la popolarità sia calata. Perché secondo voi alcune hard rock band sono meno ricordate di altre? Ma direi che forse quelle che ricordiamo di più forse hanno scritto delle canzoni più belle, forse per questo che le ricordiamo. Poi è vero anche che band meno note hanno avuto magari meno fortuna, no? Quindi magari anche la mera verità ci porta a scontrarci col fatto che con i soldi probabilmente c'è anche maggiore fortuna, no? Di essere ricordati. E poi ricordiamoci che qua siamo in Italia, perciò un gruppo come i Foghead, difficile che arrivi. Male, male. Vostre esibizioni, come sono andate e quali le reazioni del pubblico? Beh, abbiamo appena fatto due live, uno a Milano e uno a Cremona. La reazione del pubblico è di piacevole, molto piacevole sorpresa, perché comunque il nostro set live è da poco stato rispolverato e quindi ci sono delle novità così affascinanti, affascinanti, sì, direi. Botti. Concludiamo dunque questa prima parte con Alice Cooper, il maestro dello shock rock sempre attivo nei palchi di mezzo mondo, dal disco Billion Dollar Babies del 1973, di cui ci ascoltiamo la title track, dove Cooper duetta con il folk singer scozzese Donovan. Dopo la pubblicità ci ritroviamo per la seconda parte di Rock Legends. Tell me, I'm so scared. You're scared.